nostro riferimento non è la storia, ma il diritto internazionale, in particolare la Convenzione del 1948 sul genocidio, che elenca 5 atti che costituiscono il genocidio, prevede che debba esserci un intento, cioè un'intenzione genocidaria, e specifica che il gruppo colpito non necessariamente deve essere tutto eliminato, può esserlo anche in parte. E quindi, analizzando la condotta militare israeliana nella striscia di Gaza dall'ottobre 23, per 9 mesi abbiamo valutato che in 3 dei 5 casi contemplati dalla Convenzione del 48, che corrispondono al genocidio, Israele quegli atti li ha commessi. Su quali documentazioni si basa il rapporto e quali sono le principali cose che emergono? Abbiamo consultato normalmente esperti legali, abbiamo fatto ricerche sul posto, abbiamo analizzato decine di dichiarazioni di esponenti politici e militari israeliani proprio per ravvedere l'intento genocidario, e quello che è emerso è che l'uccisione di un numero di membri del gruppo protetto, l'inflizione di gravi danni fisici e mentali ai membri del gruppo protetto, nonché la creazione di condizioni di vita atte a distruggere il gruppo protetto, sono a pieno titolo nella condotta militare israeliana nella striscia di Gaza. In che modo? Con una sequenza infinita di attacchi contro civili e obiettivi civili, con il trasferimento forzato del 90% della popolazione in luoghi asseritamente sicuri e che sono stati comunque bombardati, col diniego dell'ingresso degli aiuti umanitari che hanno causato morti per fame, per freddo e altro ancora, e condizioni dal punto di vista sanitario insopportabili, la distruzione di infrastrutture civili come rifugi e ospedali. Tutto questo rientra in 3 dei 5 atti di genocidio previsti dalla Convenzione del 1948. A proposito di questo rapporto, Amnesty International, diciamo, stata così un po' anche censurata, nel senso che dovevate presentare il rapporto all'Università del Veneto e vi è stata negata la sala, cioè prima è stata, come dire, autorizzata e poi revocata in seguito alle proteste della comunità ebraica. È così, noi avevamo preso accordi con l'Ateneo Veneto, che è una istituzione privata antichissima, ha avuto come presidenti Manzoni, Niccolò Tomaseo, Mario Rigoni Stern. Immagino che loro non avrebbero negato la sala, evidentemente, però l'attuale presidenza sì. Perché? Perché c'è quella parola che è tabù, sulla quale la comunità ebraica veneziana ha protestato, e alla fine, dopo una serie di incertezze, l'Ateneo Veneto ha ritirato la disponibilità della sala e abbiamo iniziato a cercarne di alternative, fino a quando siamo riusciti a trovare dei docenti dell'università a Foscari che hanno messo a disposizione un'aula nella quale oggi si farà questa presentazione. E quella parola lì, genocidio, che è un tabù. Io capisco che le persone sopravvissute, i loro familiari, le generazioni eredi vittime di un genocidio non sopportino che quella parola sia riferita ad altre situazioni, ma quando non si fa un paragone con i fatti storici irripetibili, ma lo si fa con quello che dispone il diritto internazionale, quando quella parola deve essere usata, la si usa. Ecco, a proposito di diritto internazionale, visto che la situazione, insomma, appunto, ancora non si risolve, ogni giorno ci sono nuovi bombardamenti e nuovi morti, in questi mesi la comunità internazionale non ha fatto abbastanza? Beh, non solo non ha fatto abbastanza, ma ha fatto anche qualcosa per portare avanti questo genocidio, perché alla fine i genocidi si sviluppano essenzialmente attraverso la fornitura di armi e l'uso di queste armi. Quindi, siccome la complicità nel crimine di genocidio è prevista a livello internazionale, qui ci sono delle responsabilità che vanno in capo ai principali fornitori di armi, a Israele, che sono Stati Uniti e Germania, e in parte anche l'Italia. Quindi c'è un tema che è un po' più ampio della responsabilità dello Stato di Israele, c'è anche un tema di complicità che coinvolge diversi stati della comunità internazionale.